Gentili ascoltatori, ciò che vedete non è un inganno. È una novella che accade adesso. Giovanni Boccaccio e Cisti Fornaio sono stati invitati a cena dal professor Marco Ragazzi. Ma il professore vuole scoprire tutti i segreti di Cisti Fornaio. Per questo li ha condotti nella sua biblioteca e li ha chiusi qui